Letture di Radio 24. La sporca guerra, raccontata da Giampaolo Pansa nel suo ultimo libro, è quella combattuta tra partigiani e fascisti nella fase conclusiva del Secondo Conflitto Mondiale. Una guerra dove non c'era alcuna differenza tra le due parti in lotta tra loro, raccontata in questo libro da tre personaggi immaginari vissuti in quegli anni. Enrico, che all'epoca aveva 15 anni, sua madre Luisa e lo zio Evasio, che aveva combattuto nella Prima Guerra Mondiale e che era contrario sia ai fascisti sia ai partigiani. Una delle scene più drammatiche alle quali assiste il giovane ragazzo è quella della tosatura in piazza delle donne, dei fascisti e dei tedeschi, avvenuta dopo il 25 aprile. Ma una di loro riesce a trovare un modo per sottrarsi all'umiliazione. La scena della tosatura Enrico non l'avrebbe dimenticata più. Era andato nel grande cortile della casa del fascio per vedere le donne arrestate e si trovò ad assistere a uno spettacolo barbaro che gli diede il vomito. Era stato allestito un palco con qualche tavola e quattro cavalletti. Al centro stava una poltronaccia di vimini. Accanto al sedile erano stati collocati i ritratti di Mussolini e di Hitler, entrambi sporcati con merda di cavallo. Sotto il sole di aprile, le donne, una per una, furono obbligate a sedere sulla poltronaccia. Un barbiere improvvisato, buono per fare la barba ai tacchini, le rapò tutte a zero, sotto gli occhi della folla che sghignazzava e applaudiva. Anche qualcuna delle rapate rideva e mostrava la lingua in segno di disprezzo per il tosatore e per il pubblico. Ma la tosatura si rivelò bestiale. Per l'imperizia del barbiere o per la sua voglia di far soffrire quelle sporche fasciste, il sangue cominciò a colare sul volto delle donne rapate. Le poche che ridevano iniziarono a piangere. Altre erano cadaveri viventi, irrigidite dal terrore. Poi le rapate vennero messe in fila e fotografate. Enrico osservò che, conciate in quel modo, sembravano tutte invecchiate di colpo. Anche le belle risultavano dei mostri. Il ragazzo venne folgorato da un pensiero. Se la libertà è questa, vuol dire che anche con la pace qualcosa non gira per il verso giusto. Qualche giorno dopo apprese dallo zio Evasio che a salvarsi dall'arresto e a evitare la tosatura era stata la donna più fascista della città. Si chiamava Gilda V e aveva 25 anni. Viveva pensando a se stessa. Dopo la morte dei genitori e la scomparsa del fidanzato, un pilota da caccia caduto in mare nel 1941 durante un'incursione sull'isola di Malta. Dopo la fine del moroso, la Gilda era come impazzita. Aveva smesso di frequentare l'università, di mangiare, di dormire. Quando si rese conto che così rischiava di andare all'altro mondo, si rassegnò a campare. Scoprì di essere una militante del fascio e soprattutto di non voler restare da sola. Allora decise di cambiare vita. Divenne l'amante di un gerarca, poi di un altro, quindi di un altro ancora. Era una vera bellezza. Alta. Un fisico da modella, con un ardore che l'aveva liberata da qualsiasi vergogna. Dopo il terzo amante cominciò a concedersi dietro compenso. A poco alzò la tariffa e si portò nel letto soltanto clienti con il portafoglio gonfio. Diventò la prostituta più ricercata in città, ma non smise di ragionare su quanto stava accadendo nel mondo in guerra e poi nell'Italia della guerra civile. Si rese conto che a vincere sarebbero stati gli anglo-americani e con loro i partigiani. Si limitò a fare 2+2. E concluse che per lei sarebbe iniziato un periodo balordo. I ribelli le avrebbero dato la caccia per vendicarsi e forse per ucciderla. All'inizio del 1945 si decise a cercare aiuto da un anziano cementiere che stravedeva per lei e gli chiese di presentarla a qualcuno dei probabili vincitori. In quel modo conobbe un paio di eccellenze vicine al Comitato di Liberazione, un avvocato socialista e un grosso commerciante che rappresentava i liberali. Certo, erano antifascisti, ma pur sempre maschi attratti dalle femmine audaci. La Gilda aveva capito tutto, disse lo zio Evasio al nipote. Tutto in che senso? Gli domandò Enrico. Nel senso che ogni regime, da quello più autoritario al più democratico, ha sempre bisogno delle puttane. Non per nulla. Fare la prostituta è la professione più antica del mondo. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Giampaolo Pansa, La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti, Rizzoli, 450 pagine, 19,50 euro.